stavo provando, no, faccio contatto, ho visto qua su questo apparato, non so perché, aspetta, ricontrollo i cavi, li sto rodando tutti. Salve, buona serata, c'è anche un'altra persona, non ho capito chi è. Va, buon cuore. Non sento nessuno, io non Marco. C'è un'antenna che non sta funzionando bene. Ciao Luca, mi copi? Guarda che Claudio non ti ascolta. Io ti ascolto, forte e chiaro. Tu sei Santiago 7,5, Radio 3 però, la radio deficita un bel po'. C'è Luca nel monte. Se lo sa che non arriva qua, non so come ti dica. Non lo sento io, glielo ho già detto l'altra volta. No, lo sento. Cazzo, arriva a Santiago 9, allora non arrivi più. Ma non sarà dovuto alla bazooka, perché ricordati che la bazooka è quasi un carico fittizio, mi. Gira era meglio l'antenna veicolare con le stazionarie. Ma tu Claudio dove sei, su o giù? No, io sono su. Sono su, non arriva. Se ero giù già lo sentivo, qua non arriva. Sì, ma infatti gli ho detto quella bazooka, togliela la pazzia. È meglio usare quell'altra antenna con le stazionarie che chissà. C'è anche fuori frequenza con quell'antenna, le sta rovinando anche il baracchino. Addirittura. Eia. Io sono entrato tanto per l'SVR appena, perché sono a potenza più, vabbè. Relativamente 10 watt saranno. Ho detto devo fare la pasta, intanto metto l'acqua a bollire, poi vediamo chi entra, gli auguri casomai ce li facciamo oggi, perché domani sera non so se siamo fuori o se siamo qua, presumo fuori comunque, la vigilia Natale, vedremo comunque, dipende dalla gana che ne abbiamo. Ok, Luca, se hai la possibilità, prova, se ce l'hai ancora lì montata, prova quella veicolare di prima, forse sta cambiando, proviamo, vediamo se ce l'ha ancora piazzata. Non ce l'ho Marco. Eia, vabbè, tu qua arrivi abbastanza bene perché sei vicino, dai. Ascolta, ma la bazooka è interna o esterna? Fuori, esterna. Ok, ma hai detto Claudio che non sta andando la tua antenna, che cosa c'ha? Vento? Il vento ha fatto danno, l'umidità? No, a Claudio dico. Cosa, ma? Hai detto che è l'antenna che non sta andando bene, ma ti riferivi alla tua o a quella di Luca? Quella di Luca, la mia non c'ha niente, no? Quella di Luca c'ha l'antenna che non sta andando bene, no? Non serve quell'antenna, capito? Non serve proprio. Ma io ne avevo già accennato che dissi pompe di potenza, sì, non hai stazionarie quasi, io non ne avevo qua nel terrazzino, ma non arrivavo da doppio room quasi, no, senza quasi, non arrivavo da doppio room, non arrivavo, mi pare a malapena a te, purtroppo la bazooka è così, costa e alla fine, boh. Ok. Claudio, la modulazione come la senti? Tutto bene? Tutto regolare? Ronzie, alternate, frusci, frasci? Vedi un po'? Minchia, ma si è anche un bel altro di segnale, ma si è agganciato? No, soliti 10 watt, in realtà sarebbero 12, però il filtro antidisturbo me ne mangia 2. E quasi 9,30, sì, ottimo segnale, ottima radio, progetto l'altro giorno, è un'ottima... Ottima radio quella, veramente ottima la grande. Ma questa non è la KR5005 caro, questo è il CRT7009, guarda che all'aspetto sembra un esempio da farti, che esempio ti posso fare, sembra lo Yaesu 7009, quello dual band. Vabbè, faccio prima a mandarti la foto, dai. Ma comunque l'hai già visto? L'ho già visto, l'hai già mandata. Ah, sì. E però è una bella radio lo stesso, funziona bene, dai. Non c'è un problema. Vabbè, Luca, l'antenna la può cambiare, può mettere l'altra? Mi pare di no. A quanto ho capito non ce l'ha più piazzata l'altra, vero Luca? No. Dove finire? ti devo far squillare il telefono tutta la notte. E beh, principe. E avete di stoppa. Oi, come mi senti, caro? 9 più 31. Buonasera a tutti. Ciao a te. Stai viaggiando il 2? Il 2, sì, il 2. Come ti ho detto io? No, veramente non me lo ricordo. No, ho chiamato la batteria al microfono. Ah, hai messo il turner, cos'hai messo? Più 4. Ah, ma più 5, ho gli ho messo la batteria nuova. Non duca più 6. Faccio fare così, siamo a 60. Favolosa la modulazione, vero Marco? Scappa! Ero io. Ho provato la modalità FM per vedere se aveva stazioni aeree, perché lì pompa di più. Ma non, perché sai, sei stazionari e questi apparati hanno la protezione automatica contro le CVR e contro la sovra o sottoalimentazione, ma vedo che non va in protezione. Ok, prima forse era, chi lo sa, era ferma da un po', No, va bene, va bene. Mi dispiace, non sento a Luca, porca miseria. Arriva bene da Stefano, che sono vicini. Però è leggermente fuori frequenza, ma a me non arriva più. Così è la vita. Gira, vi sentite meglio forse in PMR? Sì, in PMR arriva ben forte. Ma tutto aspetto, c'è solo questa accesa, già. Non ho mai accesa in campagna. Tante cena. Va bene. Invece, sto a posto. Io, sì. Tutto in ordine. E io ho avuto gli altri, c'è questo mal di testa, sto cazzo cervicale mi sta ammazzando. No, ieri quello sfumato mi ha crepato a me invece. E la città di stomaco mi ha fatto insieme, ma porca miseria, e mi ha bevuto due dita a testa, poi siamo messi in viaggio. Infatti quando sono arrivato c'è un brucio di stomaco, ero stanco, perché non ho riposato, niente. Poi c'è un brucio di stomaco lo stesso. Ho preso una puntina di bicarbonato e mi è passato. Non sto prendendo la protezione per lo stomaco, ma poi c'ho mal di testa, sempre sta cervicale, cazzo, mamma mia. Sulla riballa io. No, mi è passata un po' tardi. Perché siete cuocomani. Vai, va. Oh, già siamo andati a trovare degli amici, tra l'altro però. Ero fuori ieri, c'era per fare gli auguri, ma proprio perché ce ne stavamo mandando, ho aperto il panettone, ci hanno fatto gli auguri, due dita a testa, due Stefano, io proprio due dita, gli hanno fatto un brucio di stomaco, che... A me è passato tardi, sarà stato alle 9:30 mi è passato quel bruciore. Ho mangiato qualcosa così, veloce, ma... Sì, io non ne bevo di roba gaggiata, niente. Quindi, infatti, vabbè, lucettino, nulla, mio Natale, queste cose, tanti, quanti tutti di spontaneo hanno regalato. Ma quel cestino, stavo guardando, c'erano due, non uno. Uno l'ha preso mia figlia, un altro me l'ha regalato stamattina, con il panettone, non è bello. L'anno scorso è durato tutto l'anno, Poi alla fine ce l'ha portato via mia figlia, che ci avevano una cena e ce l'ha portato via. Quindi se lo dai a Marco sai come se lo ciulla. Ti piace la sfumata a te, no? Sì. Sfumante moscato, sai, dolce, frizzante, buono. D'altronde a me di vino piace solo il lambrusco, di vini rossi, lambrusco. Sembra aranciata, sembra. Mamma mia, te maruga. Sempre fa male quella roba di gas, cioè, di conservanti. No. Il vino vuole vino, un bicchiere di vino buono, che non sia frizzante e via. Va bene. Ui. Come sto? Cosa? Non penso, no. Vabbè, lui no, moscato, vino dolce, ucci. Ancora peggio mi fa. Acqua, la cosa più buona è l'acqua. Eia. Poi se è frizzante è ancora più buona. E poi se c'è il gas, ti sfoghi da sopra, da sotto, dai sfogo ai gas. ti ricordi al baracchino, ah, qualche annetto fa. Poi con quel lambrusco, roba di diarrea dopo. Mamma mia. No. Potrei raramente ho diarrea, non me ne fanno di... Sarà che sono talmente abituato a mangiare cibo e spazzatura che ormai sono immunizzato, capito te? Ho capito, troioso. Troioso, drogato. Io mi pare che c'era Valerio. Falla entrare Marco, che arrivo subito un attimino che c'ho roba al forno. Eia, attenzione Valerio, sei tu? Vieni avanti. No, io ti sento, ma anche Claudio ti sente, sta arrivando subito. Vabbè Valerio, come va? Salute e tutto. Arrivi bene, arrivi 8, tra il 7 e l'8 oscillante, quasi 9, 8 e mezzo, dai massimo, di picco. Lo senti ste? Eia. E infatti adesso ci mettiamo a piombo, cercherò di entrare di più, quasi tutte le sere, c'è stato un periodo un po' nero. Così umore un po', non stiamo a scendere in dettaglio. Se volevo anche non pagare più il bollettino, ho detto tanto non entro più, invece poi sono rinsavito, dai. Non bisogna mai fare colpi di testa, tipo togliere antenne, non pagare bollettini, annullare concessioni, capito? Meglio tenerla. A costo di modulare una volta al mese è meglio tenerla. Cappa. Vai Stefano per Valerio. Valerio mi ascolti, buonasera. Ma sei negativo per Alghero? Negatrodio. Ti ricordi? Positrodio, Megatrodio, già viene bocca di mezza. Scusa Valerio, allora Stefano ti sta chiamando, Valerio, ma tu non lo senti, non è che puoi pompare qualcosa? Se... Pompare qualcosa? Pompa, Valerius, e lì ci sono superstiti Alghero, in 27? Oh. Ma tu lo senti Ste? Aspetta il telefono credo. Sì, 3-5 lo ascolto. Sono rientrato, ciao Vale. Non senti la nuova, sì. 3-5 c'è stacchi, la matta che te ne varia. No. Attaccato sei 8 e mezza, con picchi a 9, staccato sei 5. Più basso del solito, però ti sento anche se stacchi, non c'è problema. Certo, se non c'è molto QRM. 6-5 con picchi positivi a 7. Col picchio. Aspetta che è andata a rispondere alla suocera. Non sapevo che si è fidanzato. Allora. Ma extracomunitaria. Mi ha dato anche la foto, bella una bella negretta, ciao, capito, una bella negretta, peccato che è gonfiabile, cazzo, il giorno che gli si buca, gli scoppia mentre sta ciullando, guai, allora, anche le cose gli si arrotolano, il giorno che gli scoppia con la bambola, ciccio, perché è andato al telefono. E invece l'hai sentito Paolo? No, io Valerio non l'ascolto, negativo, per me, cioè no, non è che non l'ascolto, non mi ascolta lui a me, arriva 3-5 qui e basta, no, non l'ho sentito, fra un po' lo chiamo, mi sposto 5 minuti, ritorno subito. Vai tranquillo, vabbè tu sei sotto, tu sei ancora più sotto lì, Canica c'è proprio sto cacchio di montagna lì. Di Monte Oro, di Monte Alvaro, per Alghero, una rottura di balle, è per quello che non ti arriva Stefano, è proprio sotto, e c'è la montagnetta davanti. Ui. Al 15. Allora, siamo qua. Era al telefono, dai. Non ho fatto in tempo. Ma Luca è in PMR? Ma con te o con loro? Ma chi? Non ha giù un peso, no. Ma mai te c'è? Ehi, ma Luca sta parlando con te in PMR o con altri? Con me? Mio PMR è spento, non sta in PMR. Ehi, vabbè, mi sono assentato che devo cucinare. Minchia, non so nemmeno, perché abbasso, non so nemmeno se ho il parmigiano per la pasta, formaggio grattugiato, devo controllare, se no devo correre da Sigma. Ma te l'immagini, giro da Lidl nel pomeriggio, porca miseria, mi scoccerebbe, devo dire, di non uscire di casa, vabbè che è abbastanza vicino, però cavolo. Intanto se ne vado a fare, prima ci devo chiare, 9.35 sì, quasi 9.40, da parlare con quelli vicino a casa sua, cosa è l'unica cosa per sentirsi. Con quelli del 23 io intanto entro a salutare, ma non posso stare lì a fare questione. No, Stefano si è allontanato un attimo, non so dove è andato. E Valerio? Valerio non lo so, è sparito. Ma non lo sente Stefano, cioè non sente a Stefano, capite? Probabilmente è negativo per Alghero o roba del genere. Vabbè, peccato però. Tu sei a questo smitter 9.40, è uno smitter di quelli digitali, quindi lascia il tempo che trova, però è uno dei segnali più forti nel tuo, 9.40, arriva fino a 9.60 questo è, poi non so se ci arrivi veramente, ci vorrebbe uno sotto casa che modula e vedere se ci arriva a 9.60. E anche il tuo, dopo Antonello il tuo è più alto, 9.40 sì, non lo so, guarda se sale, però non parlo, aumento la potenza, va. No, nulla. Questo è grossolano, certo non è smitter serio, e rimane uguale qua. Secondo me, io dubito anche che segni più di 9.40, in poche parole. Secondo me l'hanno fatto così, per i gonzi, capito? In 9.60. Cazzo, cioè da 20 watt a... Come hai detto, 20 watt? Cioè da 20 a 100 non cambia niente, minchia. Ma te l'ho detto, secondo me è finto il 960, cioè più di tanto non va, nessuno, non ho mai visto, anche quando si modulava, no, mesi fa, non ho mai visto un segnale superiore al 940. Dubito che vada oltre lo smitter. Vabbè, devo sbrigarmi, dai, ho detto, se non c'ho parmigiano devo correre su, prenderlo, se no non riusciamo a mangiare oggi, dai. Poi se c'è qualcuno dopo bene, e se no, dai. Oh, poi Claudio, se domani siamo da parenti, io gli auguri te li faccio già da adesso, Ti faccio già adesso, nel caso domani non ci sentiamo, ok? Quindi buon Natale, buon anno, che ti porti tutto quello che vuoi, l'anno nuovo. Sì, è quello l'anno nuovo, sono già morto, già sentiamo, già ci sentiamo, non ti preoccupare, comunque il contraccambio, buon Natale. E domani io sono in campagna, ho già c'ho la radio, non c'è problema. Ok, vai, prendi questo formaggio, vai, già sono qua. No, dico, controllo se c'è, e poi devo stare dietro la cottura, è un casino, dai, non credo che potrò fare, va di indietro, dai. Comunque rimane tutto acceso, è acceso, comunque radiatori poco e niente ne sto sentendo, veramente poco e niente. Sento sempre questo segnale digitale 430 e 100, questo però per il resto, mi ha detto che avevano ripreso un po', ma qua non pervenuta, ho messo tutte le frequenze in uso, quelle solite, no, che senti di più, ma ben poco aggiunteso. Stiamo usando l'R7 alfa e l'R0, 145 e 600, Eccetto, 45782.5. Basta, non stiamo usando altro. 430 e 100, non ci sto parlando nessuno. Stiamo usando solo il VHF. R7 alfa e R0, basta. Se io poco fa, io non senti niente. Vuol dire che non ce le hai a memoria. Adesso ti dico quale ho. Allora, 145 525, 430 100, 431 2375 col ponte, con la specie di ponte Cisa, 145 275, 433 500, questa è, non so perché ce l'avevo, ma è una vecchia, 433 075 era il monitor LPD, 145 6625, quelle che hai detto non ce l'ho mi pare, 432 525, 145 350, 145 625, e infatti quello che hai detto non ce l'ho, a 600 e poi 782.5, quant'è? 625, ce la usiamo, 525, il resto lo bogate tutto, già, non c'è niente. E poi ti metti 145 785.2, che è l'R7 alfa, e 145 600, boh, sempre lì siamo, non stiamo andando da nessuna parte. Ma infatti certe volte io, anziché fare la scansione dei canali fissi, dovrei fare la scansione della frequenza, no? Lo scanner proprio da 144 a 146, e vi avrei trovato, senti. Io ho capito, ma cosa devi scansionare? Se tu vuoi mettere una in V e una in U, anziché mettere, se non ce la fai, ti metti 145 785.2, l'R7 alfa, l'R0 anziché mettere 145 600, metti 432 525, che c'è il trasponder, e così c'hai le V e le U, una sull'R0 e una sull'R7 alfa. Basta. Ancora questi petardi, mamma mia, che dilettanti, ah, petardini stanno scoppiando. Se attacco io, ohia, poi io ho tutta roba legale, ce l'ho da anni, pensa, non ho più usata perché forse i regolamenti, bah. Anzi, quest'anno il sindaco è stato più buono. I botti si possono usare a certi orari, tipo dalle 9 alle 13, dalle 17 o dalle 16 alle 20, però vietato proprio i giorni di festa, cioè la vigilia di Natale, il giorno di Natale, e poi il 31 e l'1, proprio a cavallo non puoi manco più festeggiare, te le immagini. Mi ricorda quel film 32 dicembre con Cannavale. dice, ma lei è disoccupato, cosa vorrebbe festeggiare? Cos'ha da festeggiare? Sì, io non ricordo quel film. E vabbè, lei si fa per non spaventare, insomma, gli animali, persone. Sono persone anche anziane che hanno paura di queste cose. Immunizzati quelli lì, e vedrai che già senti, soprattutto sulla R0, è abbastanza trafficato. Va bene, va bene, che se non fa la barba, ma voto domani in campagna, una giugana. Anch'io sono barbuto, me la dovrò fare domani, se giusto perché andiamo da parenti, non mi voglio far vedere abbruttito. Bene, detto ciò, devo andare, dai, devo controllare se c'è tutto e procedere, ok, lascio tutto acceso, tutte, anche lo scanner, ciao, a dopo. Va bene, lascialo qua, io ti ho detto, sono senza petto, sto facendo una bocchetta, dai, cazzo, c'è un mal di testa allucinante. Vabbè, dai, sono qua, Marco, a dopo. Ivan ci sta viziando di pizze di nuovo, anche stasera me la porta. Io ho detto, io non voglio approfittare, però ma girami le balle, stasera ti porto la pizza. Prima stavamo mangiando pizze così, ci accontentavamo di quello che c'è in zona, adesso è un bijou. Lo sai, se fa buono, no, ma sicuramente ci vediamo questi giorni, ah, ci sentiamo, che devo telefonarle, vabbè, come sta Giuseppe, facci gli auguri, ah, vabbè, quello che mi ha promesso ha fatto, meglio così. Sì, ma poi te l'ho detto, ho detto appunto che il padre l'aveva bruciato con un alimentatore non adatto e gli avrei detto pazienza, lampadilu, tanto mi era obsoleto già allora, è stato un acquisto sbagliato quello perché aveva poca RAM. Io, non conoscendo il mondo dell'Android, mi sono fidato di quello che ho trovato in negozio, invece bisogna seguire le recensioni sia sui siti e sia su YouTube. Se ti spiegano tutto, a te ti interessa un modello specifico, ti spiegano vita, morte e miracoli di quel modello, te lo consigliano oppure te lo sconsigliano. E così ho preso lo smartphone nuovo, capito? Leggendo le recensioni, prima andavo alla cieca, scemo io. Va bene, dai, a dopo, ciao. Infatti, a volte ci dobbiamo fare consigliare. A dopo, Marco, io sono qua, dai. KK. Eccovi qua. Ho messo l'acqua a bollire. Fuggiti? Auli, uli. Chi è? L'asino bebè. Stefano, guarda che siamo su Cibitalk. Io sono rientrato che ho iniziato a fare la pasta, era deserto. Cibitalk, canale 14. Troioso. Come stai? Troioso, ci prova adesso, dai. Non ce l'hai il programma? Sì, lo accendo su. Aspetta, che se parlano lì non sento qua, dimmi. Alzo il volume, aspetta. Ecco, dimmi. Oh! Ho detto che lo sto accendendo. Ah, ok, va bene, dai. Sono passati lì tanto per, che sai, c'era rotta lì, allora mi sono aggregato anch'io.